si capisce. Non si capisce. Non si capisce. E adesso si capisce. Ah, sei tu Giulio, scusi. Forse Claudio. No, perché sono degli amici nell'applicazione, sono Cibitronk, no? E vediamo un po' se passano qua in 27, così almeno possiamo prendere il telefonino, capito? Aiuto, vieni qua. Ok, dai. Solo che Giuseppe Leoncino rimane fregato perché non so, il baracchino non lo sta usando, non ce n'ha più. No, mi stavo dicendo, io ho detto, devo pagare la concessione perché sennò non posso portarmi fuori i portatili, no, perché se li vedono. E Giuseppe Leoncino ha detto che no, non ne devi pagare assolutamente. Chi te l'ha detto che devi pagare la concessione? Cosa te ne fai? Non c'è nessuno. Scusa, se mi beccano con una radio fuori, metti che trovi pubblico ufficiale e vuole sapere che radio è, cosa fa. E io sono senza concessione, senza bollettino, e sapete cosa mi fanno. Aspetta che mi sto sistemando. Non è come hanno detto, non c'è nessuno. Cosa vuol dire non c'è nessuno? Cosa significa questo? Allora tu stai usufruendo di un servizio, dunque siccome esiste una legge che ti obbliga a fare la concessione, o meglio a pagare la tassa, per cui lo devi fare, anche se non c'è nessuno, non deve fare niente al poliziotto o chi di esso che deve controllare, capito? Come volevasi dimostrare, non hanno capito nulla. Leoncino e Antonello sono andati sul 10 del Cibital. Sei troppo forte di radio. Ecco il microfono vicino, aspetta che appassa. Perché abbiamo un microfono troppo vicino. Poco fa, diciamo, sei forte, è un po' più turco la paglia. Va bene. So cosa stai usando, quello lì, è facile aumentarci. Perché appunto mi stavo sistemando ancora. Perché mi sono messo la bisnattiglia vicino, mi sono messo e avevo il tablet in mano, ero un po' indapparato, adesso si chiama, adesso va bene, no? Sì, ti ascolto benissimo adesso va bene. Infatti poco fa ho acceso, non ho visto nessuno qua. Ho girato là in quell'applicazione ed eravate tutti là. Ma che cavolo vi fate io? Con la radio che abbiamo. Ma io lo ascolto. Due parole da Graziano, oppure l'altro non sentivo perché non si sono rilassati. E poi io dovrei essere il Cibitronk, ed ecco che ero lì su fattore. Ma sì, era appena entrato anche lui. Poi ho aggiunto due telefonate, una vicina sono andato, ed ecco che cosa ho parlato lì. Ho fatto che no, due passaggi contatti ho fatto sulla Cibitronk. Ecco, in effetti. Quando è così arriva la telefonata, come a me ieri sera, mi è arrivata gente, mi è arrivata, giù, ma nulla di. Infatti stavo aspettando che passassero il microfono, poi c'era Marco che stava facendo, stava parlando lui, ha giocato, beh, adesso il suo problema della storia già mi sente Giulio. Ehi, a Vuglia, grande. E tu non hai sentito quanto ci sono? Sì. Normale. Adesso Marco, che sì, ma non sei sparito anche tu su internet. Ma hanno pensato 10 sul Cibitronk. Allora l'ho pensato 10. prima, io mi ricordo che uscivo con la 27 e adesso non sto uscendo più, non lo vedo, cos'è il buco da girare? No, non sono 27 assolutamente. Troppe cose, perché è abbastanza una per parlare, so, ok, siamo sempre lì, un po' qua, un po' là ancora, e così via. Siamo riusciti a fissare il discorso. Adesso con CBTOC diciamo che c'è una comodità più, perché ti sdrai sul letto e prende alla grande, e ne vai a un altro posto e prende, in qualsiasi posto che vai, anche in bagno, e prende, e non ci vogliono né cavi né niente, né microfono, nulla, è tutto lui, c'ha una cosa più diversa e la gente la preferisce. Lo so, preferisce perché non lo so, forse perché è una novità, tutti i giorni sento gente che si fa l'espressione, tutti i giorni, anche poco fa c'era uno che dice che sono per il sito e stava chiedendo spiegazioni, però il baracchino c'è da fare, tanto per parlare alla distanza di 30 km massimo possiamo parlare benissimo con il baracchino su quello che c'è, con più soddisfazione soprattutto, almeno sappiamo quello che abbiamo, la stazione radio compressa senza stare al telefonino, soprattutto per le radiazioni anche lì, perché il telefonino ha delle radiazioni non è differente, non è come il baracchino. Lo so. Poi te ne sei accorto che hanno aumentato un bel canale. Prima era dall'1 al 15 e adesso hanno messo anche 00 hanno messo. 00, Italia 00, Italia 1 hanno messo e via. E sono bei canali. Dopo 15 di nuovo hanno messo altri canali. Dopo 15, prima è Italia fino a 15, no? Italia 15, perché, no? L'altro è DF, vuol dire su al mai, vuol dire, per quello è, lì, sì, si può parlare, però se vuoi parlare, per dire, in modalità CH, no? Non puoi fare perché non c'è quella possibilità. Quelli si sentono a distanza con il microfono ormai. Infatti lì si guarda bene nella cosa, nella faccia, diciamo. Ora là è da 15, da 1, da 2, da 3, da 15, perché Italia è più troppo. Tanto il DM 45, ora il DM 700. Vuol dire su al mai. Sì, ma dopo 15. C'è il 16 sino al 20, se tu hai notato bene, sino al 20, dal 20 poi arriva a 45 e poi dopo 45 fa il dual mic. Sì, 45 ma è sempre come canale, c'è Italia 45, ma c'è anche Italia, cioè il DM, c'è il dual mic 45, ma sono 5 canali, certo. Se possono mettere anche 1000 canali, se baracchino non lo possono sostituire. Sì, è vero che con quello parli con tutto il mondo, con tutto il mondo, non ci sono dubbi, questo sì, è vero. Però io perlomeno non ho quella soddisfazione come parlare al baracchino, perché è tutta la vostra soddisfazione. Il baracchino, vedendo con l'imprevedenza, non la faccia più troppo, con la stazione radio, le consultanti anche a voi, è tutta un'altra cosa, è più bello là, è molto migliore secondo me. Certo. Stamattina ne è tratto uno in Ital Zero e si presentava come radioamatore, si presentava, dice io sono radioamatore, diceva tutto, proprio no. Ogni 5 minuti lo diceva. Alla fine sono entrato e gli ho detto, secondo me tu non sei un radioamatore, tu sei un coglione e basta. Perché secondo me un radioamatore serio, cioè veramente un radioamatore aggiunto, non entra a fare le cazzate che stai facendo tu. Oh, nel come mollo io, entra un altro rianatore e mi ha detto, dice, guarda Franco, ti le, mi hai preso le parole di bocca. E chiaro credo. Ehi, se è stato qualche deficiente, che si è passato per l'animatore, ma in realtà l'animatore non aveva niente. Purtroppo. Ah, e lui si presentava con la sigla, eccetera, per farsi grande, che poi grande non era, perché era talmente piccolo che quello lì lo toglie dall'animatore. Ma era anche CD e carto anche. Sì, ma in effetti tu quando è entrato quell'altro, un radiamatore zero, è entrato e gli ha detto, dice, io sono un radiamatore, non tu, però non è un posto di sigle qua, le sigle si fanno solo in radio, con le radio nostre di radiamatore, per cui ho preso la patente, ha detto, lui è sparito, non si è fatto un business. E io non credo. Perché è così. Tu immagini se l'avessi sentito Claudio, è quello, e lo sai che Claudio con la lingua gliel'avrebbe detto tranquillamente, anche se era un pellegrino. Purtroppo diciamo che il mondo è bello anche per quello, perché è vario, fra. Infatti quell'altro radiamatore poi mi ha detto, certo, ma sei radiamatore, vedo una bella radio, dice nella tua, al posto della foto. Ha giurato, no, non sono un radiamatore, sono un CB. Solo che mi piace ascoltare nelle frequenze, cioè le solite quelle, basta, però non sono un radiamatore. Però capisco quando uno è radiamatore e quando non lo è, ha giurato. Lo credo, ma quello evidentemente era qualcuno che era appena entrato lì e si era passato per gli amatori, perché nemmeno il CD si sarebbe comportato così, guarda, perché il CD bene o male, diciamo che almeno l'impronta del degli amatori, non dico il titolo, ma l'impronta ce l'ha, e non penso che si sarebbe presentato con la maglia sigla, con le varie sigle ministeriali, eccetera. Quello chissà che cosa ha voluto fare. Pellegrino, insomma. E poi quella radio che c'era nella foto non è neanche la mia, è di un amico. Se avrei avuto una radio del genere, avrei avuto di una comparalla, sì. Vabbè. Maracchino, noi abbiamo il Maracchino qua, e ci basta quello, non ce ne frega niente della radio. Ci passa il baracchino e i nostri 12 euro che io ancora devo pagare, ma lo faccio per l'ultimo giorno di gennaio, non lo faccio mai prima, come faccio sempre, per quale motivo gli devo dare prima lo stato? Figurati, tu mi dirai, ma non cambia niente, ma so che non cambia niente, a me non mi cambia niente di niente, e nessuno cambia niente, però io ho quella quel sistema, l'ultimo giorno sta, e l'ultimo giorno te lo pago, ma è finito lì. Sì, quello già è vero anche. Ma io a dire la verità l'altro giorno sono andato. Ho visto a mezzogiorno sono entrato, non c'era nessuno, neanche un'anima c'era. Ho fatto entrando dalla porta e andando a pagare. Ha detto così mi piace. Così già va anche bene. Tanto io devo andare anche. Dunque, se così adesso stavo, guarda che giovedì scorso, intanto non ho accompagnati a voi. Perché c'era anche la frente oltre, perché mi tratta, non ne riuscirà mai. Siamo quasi sempre alla prossima, quando si sentirà la pressione. Comunque io devo un passaggio, guarda le due, vado, a quell'ora sono pochissime persone, quasi nessuno, e comunque posso fare anche un trattamento per la casa. Ed è si può considerare fortunato per stato stato, perché anche non 31 mi vedo con 24, 25, quando è giovedì prossimo. Ah, le porte la permette quello, penso. Sì, noi ce la tiriamo per intero lì, e poi ce la portiamo noi, che banca, cioè la porto io pure in banca. Sì, senza stare lì a fare troppi cose. Sì, potrei andare a vicinare perché primo di gennaio, federale, era un neonato meno 4 quando sono arrivato io, e c'era gente che era da vestire il mattino a 70, ma in tante non lavora, quando mai uno deve stare lì? Oh, una cosa incredibile. C'erano già, come minimo, c'erano 20 persone, guarda, già era aspettando che aprisse le uffici. No, io avevo già lo stipendio, mi arrivava già in banca quando lavoravo e ho lasciato tutto lì, ho messo, infatti all'Inpis gli avevo dato il codice IBAN della banca e adesso tutto in banca e per non stare lì andando, tornando, ho detto lo lascio lì e buono. Vicino alla banca, non è molto lontano, la BNL ci abbiamo qua, è anche il Banco di Sardegna e un'altra banca c'è, però ho preso quella più vicina, la BNL, che è di fronte al comune e mi va benissimo, due passi. L'importante è camminare anche, io adesso mi sono bloccato un po', mi sono, e non sto camminando più, e adesso come ritiro la macchina di nuovo, vado, che sono a piedi in questo periodo, come ritiro la macchina ci vado di nuovo a camminare. Queste cose qua gli va bene lo stesso, bene, ma io se sarei stato in città tipo Sassari, cosa così, avrei camminato tutti i giorni, perché dentro Sassari, dentro una città grande non te ne accorgi neanche, fai chilometri e non te ne accorgi. Oh. verso totalmente fuori, è proiettato, e vabbè. È bello padre, qual è il discorso generale, è bello, viene sempre in forma e sei tranquillo, è bellissimo. Sapete, a me, per dire la verità, il calcio una volta sì, poi questo calcio ha cominciato a essere più che gioco d'azzardo, più interesse che calcio, che sport, hai detto la grabbia in culo. Vabbè, se uno non è proprio appassionato, non scamanato, lo puoi battezzare che sei, sono degli scamanati, ma sai dai. Poi, qualche anno fa ero lì, nel bar di Parmigiano, perché il giocatore della Torre, che aveva un bar da fare, però, talmente però, la partita era per il migliore, in diretta, talmente c'era questo passo, come questo locale c'era una colonna che stava, una colonna che si è ammazzato, si lascia, segna la Juve, la Juve inizia a dire cosa la volta, si alza questo dalla contentezza, ha dato una manata sopra al pilastro, gli ho fatto, mi sono detto, un caso orato, come dico, questo è spazio, fatto il buco, da allora io, dai bar a vedere il partito di proprietà, non mi vai in casa, va, se la vai in casa, perché almeno, no, c'è fuori quel piatto, fanno poco di piatto, ma fanno fuori, sono quelli che sono sicuri e quelli che sono contro. Va a finire che a un certo momento non capisci più niente, cioè vedi la partita e non capisci la cronaca, perché se tu ti abusi, non sai, ne crea, ne si dice, ma va a carità, è meglio a casa, la partita me la guarda a casa e non si parla più. Infatti, ma io ho cominciato, guarda, prima da ragazzo ci andavo a vedere partite al bar, così. Io non sono andato più a un bar a vedere una partita, soprattutto per quel motivo lì, perché c'era quello, per dire, giocava Juve Milan, c'erano i milanisti, c'erano i juventini, e si afferravano, quindi magari basta avere un bicchiere in più, si azzuffavano, e poi che sono macchine, e poi chi ci perde sono gli altri. Infatti, ma il sistema di uno si deve mettere in mezzo a questa gente, ma se no, quelli non sono sicuri, quelli sono farabutti e basta, cosa sono scamanati, ma carità, no, non va bene, non va bene, non va bene, uno può anche essere tifoso, ma deve contenersi, non si può, non può perdere la dignità facendo certe scelte, ma non può essere. Io mi ricordo, tantissimi anni fa, proprio nei primi anni là del Baratino, allora da Sindoli e anche da Castellano eccetera, quando c'erano le partite in calcio, con Baratino facevano la radiocronaca, io tutte le domeniche, allora la partita giocava tutte le squadre, giocavano la sera, giocavano la domenica sera, poi tutti, non come lui, cioè che fanno un campionato prestativo, un giorno gioca lunedì, l'altro giorno gioca mercoledì, l'altro gioca il sabato, l'altro gioca a Roma e così via. Questi lì giocavano tutti insieme, anche le squadre dilettanti, come poteva essere Sicile, come poteva essere Castellano, allora, voi si fanno così. E c'era la radio prova, cantoni di Baratini, si accendeva Baratini e aspettava, le liberoni delle squadre dilettanti. Poi avevo anche la radio, perché ero arrivato ad ascoltare più cose, e ascoltavo le partite della Serie A. Io sto parlando di tanti anni fa, non ho avuto la televisione, allora le partite si ritagliavano. Tanti anni fa non era tanto bello, ma non era neanche perché era. I tifosi erano più tifosi che di adesso erano, però ce n'erano che erano tifosi e basta, e ce n'erano che erano fanatici, quei fanatici non volevano visti, per carità, come oggi i fanatici sono al buio, più cattivi di prima. No, oggi non sono fanatici, oggi addirittura sono delinquenti, oggi sono delinquenti. Allora vediamo che cosa combinano, per carità, no, infatti perché no? Non vado a vedere le partite che hanno un certo interesse, un certo importanza, vado a vedere le partite di promozione, voglio andare a vedere l'altro, così, quando mi ci sono stati interessi, no, non ne valeva la pena. Tante volte sono stato a casa, a torre ormai, sta giocando ancora, ma come se non si può, fa sempre la percezione. Perché, ma non conviene andare allo stadio così, professionistico, non conviene. Conviene andare nel campo di dilettanti, ma la mano, a bello sai che lì non si sente bugiano, sai dove si sente bugiano? Nei campi dei allievi, dei bambini, perché? Perché ci sono le padri di stessi che appunto vestiziano e picchiano anche l'allenatore, se è caso. Che è questo? Scusa l'attimo. Mi stanno chiamando per l'accesso, era bellissimo, non me ne ricordo. Chiamata, ma chiamata, senta un po', ecco, avevo diverso il perché non capivo, ma che è questo il filo, vuol dire diverso, perché invece chiamata, ma chiamata, tanto che chiamate normalmente.